la bocca sollevò dal fiero pasto quel peccatore, forbendola ai capelli del capo che li avea di retro guasto. Poi cominciò: tu vuoi ch'io rinovelli, disperato dolor che il cor mi preme, già pur pensando pria ch'io ne favelli. Ma se le mie parole esser di insieme, che frutti infamia al traditor chi rodo, che frutti infamia al traditor chi rodo. Parlare e lagrimar vedrai insieme. Ch'io fui conte Ugolino, e questi è l'arcivescovo Ruggeri. Or ti dirò perché i son tal vicino.